Come ai vecchi tempi, eh? Come ai vecchi tempi. Vado, taglio l'Atlantico alla grande, ninetta mia, non far domande, un giorno forse capirai. Vado con la mia faccia da trentenne, miseria e fame in FM, senza il contratto della Rai. Vado dietro la rotta di Colombo, porto canzoni, libri e piombo, dannato Yankee aspetta là. Vado, sta attento vecchio paperone, con la tua faccia da ladrone, che arriva dinamite bla. E tu nina mia non piangere ogni giorno, perché io vado, prendo l'America e poi torno. Tu nina mia non piangere perché vado, la prendo e la regalo a te. Nina mia bella come una puttana, ti bacio a scappo che l'America è lontana. Yakun lei, yakun lei, lei e lei ai. Vado, vendicherò tutti i parenti scappati intorno agli anni venti e non tornarono mai più. Vado, compro tutte le noccioline, spacco un miliardo di vetrine, poi prendo il piatto con due jack. Vado, Las Vegas a te ti taglio i fili, poi senza bombe né fucili, taglio i capelli al grande Black. E tu nina mia non piangere ogni giorno, perché io vado, prendo l'America e poi torno. Tu nina mia non piangere perché vado, la prendo e la regalo a te. Nina mia bella come una puttana, ti bacio e scappo che l'America è lontana. Ya con lei, you can lie, lei e lei ai. Vado, taglio l'Atlantico alla grande, ninetta mia, non far domande, un giorno forse capirai. Vado, c'è un vecchio amico che m'aspetta, lui l'ha si è fatto la casetta, chissà se tu m'aspetterai. E tu nina mia non piangere ogni giorno, perché io vado, prendo l'America e poi torno. Tu nina mia non piangere perché vado, la prendo e la regalo a te. Nina mia bella come una puttana, ti bacio e scappo che l'America è lontana. Ya con lei, ya con lei, lei e lei ai. Ya con lei, ya con lei, lei. We'll be right back.